fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Per raccontarsi, per raccontare, questo è il motto della nostra radio ed è il modo che ci piace per entrare in diretta. Buonasera a tutti, Master Nick live dagli studi di Risto Radio Convento, sabato 8 dicembre del 2018, è l'1:20 del mattino e come sapete, come ci piace fare, facciamo raccontare la serata, la festa a tutti i nostri festeggiati che sono qui con noi questa sera. Partiamo con una signora sposa, signora nel senso che ovviamente è donna, ma anche signora sposa di una certa levatura, di un certo spessore. Diamo il benvenuto a Claudia e a tutte le sue amiche che sono entrate nei nostri studi. Ciao Claudia. Ciao. Oh, guarda che bello, come va? Bene. Vedi, la vedo anche spigliata, sciolta, tranquilla. È il tuo habitat naturale. Sì. Sì, ti senti a tuo agio. Sì, sì. Bello, vedi, mi piace, mi piace. Allora, Claudia, dici un po' da dove vieni intanto? Da Castelleone. Ok, che per gli amici del sud Italia si trova? Cremona. Lombardia. Vicino a Cremona, beh, sì. Fino a Lombardia penso ci arrivi, però no, mi piace che tu sia didascalica e precisa come è giusto che sia. Castelleone che dovremmo ricordare per... Per la torre. Per la torre di Castelleone. Cos'ha di particolare rispetto a tutte le altre torri? Ad esempio, io che domani non c'ho nulla da fare, volevo andare a vedere la torre di Pisa, di cui mi parlano tutti, e invece devo venire a vedere quella di Castelleone, perché? No, vai a quella di Pisa. Ah, bello, mi piace. Tra l'altro, Claudia, che è anche assessora al turismo di Castelleone, come avrete capito dal modo molto vissuto, ecco, partecipato con cui promuove la sua città, mentre la sua amica lavora all'Enel perché ha appena spento le luci e quindi ha deciso che non abbiamo pagato la bolletta. Ti ringrazio, il tuo sederino d'oro ci ha permesso di spegnere tutto. No, scherzo, una battuta. Quindi dicevamo, la torre di Castelleone perché? Guarda, fanno il falò il 19 di marzo. Beh, quindi andando adesso prendete posto e dovreste essere nelle prime file. Può essere che qualcuno sia la prima, però se insomma se andate, ecco, questo è un buon motivo per andare a visitarla domani, così avete il posto per vedere il 19 marzo il falò. E allora dai, parlaci un po' di questo falò, cosa succede? Bruciano la vecchia o il vecchio? Si consuma, il palo cade. Io sento dei suggerimenti, come a scuola. E gli hanno passato i bigliettini sotto banco. A posto. Vabbè, andate a vedere la torre di Castelleone. Ma si griglia poi. Aspetta, come si chiama la signorina Ricciola? Vai Veronica, vai tu. Niente, una volta che la vecchia brucia cade il palo. Madonna, mi esordisce con una naturalezza. E niente, quando la vecchia brucia, come per dire, fosse una cosa che succede più o meno una tutti i giorni. Una vecchia fantoccio. Ovviamente. Ok, una vecchia fantoccio. Niente, alla fine con le braci del falò si fanno delle belle grigliate fino all'alba del giorno dopo. Sostanza molto spartana. Insomma, com'è non è, di rifo di raffa se mangia sempre da qualche parte. Qualunque festa finisce in mangereccio. Quello che è importante è che se scegliete un giorno per andare a visitare Castelleone e la torre, conseguente, come avete visto, grande occasione di ritrovo paese, ecco, di tutti i locali, non scegliete il 31-12 perché ci saranno tanti eventi, ma uno in particolare avrà luogo in quel dì, lo scopriremo tra poco. Cosa succede, Claudia? Dici un po'? Mi sposo. Oh, che è anche il motivo della tua presenza qui questa sera, immagino, per festeggiare il tuo addio nubilato. Ti sposi dove? Sulla torre di Castelleone. No. No, a Santa Maria. A Santa Maria. Padri. Credevo che facessi un'anteprima, bruciassi un fantoccio giù dalla torre di Castelleone. No. Santa Maria? Alle Valli. Che è sempre a Cremona. Ah, ok, ma è il tuo paese natale? No. Ah, no, perché di solito ci si sposa nel paese natale. È lì vicino. Mi piace che, come si capisce dalla sua esposizione, Claudia aveva 8,5 in geografia alle superiori. Si vede che insomma è portatissima per questa materia, è una materia che sente proprio nel cuore. E quello che conta però, bisogna capire, già me l'hai detto ma è giusto che lo diciamo tutti, è il motivo di questa data. Perché uno, hai rovinato le feste a tutti. Questo è fondamentale, no, rovinato tra virgolette, nel senso che, beh, due, dall'altra parte hai risposto tu stessa alla grandissima domanda che tutti si fanno, che facciamo a Capodanno? Vedi? Almeno loro per quest'anno l'hanno messa via, e cioè no, anzi, in realtà ogni tanto uno è partito e diceva, che facciamo? Ah no, quest'anno no, non lo devo dire. Cioè, quindi è stato anche illuminante, hai salvato la vita di qualcuno. Però, a parte gli scherzi, come mai questa data totalmente fuori dal comune? Perché è il compleanno del mio bambino, che fa 2 anni. E si chiama? Lorenzo. Ah, credevo Torre di Castelleone, no. Lorenzo, bello, bello. Che tra l'altro è anche un'altra frazione cremona, giusto? San Lorenzo... No! C'è qua. No, non è... Non c'è... No? No. Ah no, il castello di San Lorenzo, scusa. E niente, è un'altra cosa, un'altra cosa. Eh no, è vero. Castello di San Lorenzo, Torre Picenardi, provincia di Cremona. Ah, ok. Vedi, qualcosa, qualcosa c'entra. E ma perché fa concorrenza alla Torre di Castelleone, quindi voi non lo conoscete. E quindi Lorenzo, 2 anni, il suo compleanno, bello, bello. E avete scelto questa data per questo motivo? Sì, e poi non c'erano... Cioè, allora, se mi dici non c'erano giorni disponibili e ce ne sono altri 364, no, ti butto... Alla villa, no. Ah, alla villa, ok, quindi è un discorso di ristorante, di insomma di scelta di location. Ok, ma sei contenta, certo, della data? Beh, diciamo che è una roba unica che rimarrà sicuramente nella memoria. Sì, festeggiamo il compleanno del bambino, Capodanno e il matrimonio. Ma che bello. Ah beh, perché fate la cena, lo fate al pomeriggio? Sì, sì. È bello, bellissimo, 3 in 1. Neanche, cioè neanche la Lidl fanno quelle offerte qua. A proposito di Lidl, visto? Che gancio ti ho fatto? Cosa fai nella vita? Lavoro come cassiera in un supermercato. Boh, sembra quasi il mio lavoro, che bello. E quindi 3 in 1, fantastico. Avete pensato qualcosa di particolare? No. No, niente di eccezionale. No, penso magari fuochi d'artificio. Sì. Ah, beh, già qualcosa. In teoria sì. Se vi fanno il permesso, sì. Se vi danno il permesso. Vabbè. Provateci. E le tue amiche oculiste invece chi sono? Presentacene un po'. Oculiste perché dovete sapere che hanno, se sono andati di moda negli ultimi anni gli occhiali grossi, che sono tornati di moda, loro li hanno tripla XL e quindi sono molto molto visibili. Vai, presentacene un po'. Veronica, la mia testimone, nonché promotrice della strega, della vecchia fantoccia cabruccia. Ok. Elisabetta. Sì. Nazarena e Sara. Tutte amiche? Sì. No, chiedo, magari c'è tua cugina, no, tua sorella, non lo so. Tutte amiche, tutte amiche. Ragazzi, voi volete dire qualcosa alla signorina Claudia? Tanto c'è gente che vi bussa. Dovete sapere che le ragazze di Castelleone hanno fatto grandissime conquiste, questa sera avevano veramente coda, neanche alle casse del Famila il 31 di agosto, di dicembre, scusa, c'è tutta questa coda. Vai, dite qualcosa. Niente, gli facciamo un grande in bocca al lupo, sperando che la sua storia continui benissimo come è continuata fino a mo. E niente. E si stanno palpeggiando le tette nel frattempo tutte, per non portare sfiga. E che le volete bene. Altri messaggi importanti? No, nessuno, niente, tu sei la testimone, la portavoce del gruppo. Molto bene, Claudio, vuoi dire qualcosa tu? Grazie per la serata. Prego, figura. L'hai detto, a chi l'hai detto? A me, a loro, al microfono, non capivo. A tutti, bene, quindi tutti siete ringraziati da Claudia per la serata, che abbiate partecipato o meno, o anche addirittura che lo sapeste o meno. Mi ha chiamato un ragazzo di Castellammare di Stabia adesso, mi ha detto prego, quindi ti riporto questo bellissimo messaggio da parte del Sud Italia. Niente, grazie a tutti per la serata. Grazie a te. Bene? Non lo so, io ti do la possibilità, se non ti va e vuoi ascoltare, stiamo in silenzio 20 secondi e ascoltiamo il vociare delle foglie che cadono e il vociare delle api. Bello così, bello. Suggerite. E dopo questo, no, tranquillo, dopo questo momento di grandissimo gelo, vi ringraziamo per essere stati al nostro ascolto e a parte gli scherzi, facciamo tantissimi auguri a Claudia e al suo futuro matrimonio, un grandissimo in bocca al lupo per tutto e a questo punto uniamo anche gli auguri al piccolo Lorenzo. Grazie. Che regalo gli farete? È dura, eh? Fare un regalo durante una festa in cui si ricevono regali. Anche perché noi abbiamo Santa Lucia. Beh, fantastico. Santa Lucia, Natale, Capo. No, beh, Capodanno non si festeggia, è compleanno. Madonna, un bel trittico, dai. E un dopo bel... io il 2 gennaio compio gli anni. Ah, però! Compio gli anni il 2 gennaio. Fantastico, ragazzi, vi concentrate. Cioè, dicembre, pam pam pam, mese di fuoco. Proprio. Cioè, sono pacchetti su pacchetti su pacchetti. Tu sempre lì a nastrare roba. Sì, sì, sì, carte che strisciano con una. con una velocità mai vista nel mondo. Bene, bene, sarà felice Amazon, perché avrà, avrà le cioè, diciamo che durante l'anno, se l'indice di vendita di Castelleone è 0,012%, a dicembre impenna al 55%, tipo il paese con più rendita di tutto il mondo. Allora, grazie mille ragazzi di nuovo, ovviamente anche grazie alle amiche che l'hanno portata qui con noi, e tanti tanti auguri alla nostra Claudia. Ciao ragazze, buonanotte.